La quota rosa di Elisabetta Fiorito. Buongiorno, buongiorno, e oggi ci occupiamo di una legge che riguarda tutte le donne, la legge 40. C'è stata una sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato parte della legge incostituzionale, e noi, per capire che cosa ha intenzione di fare il governo, che cosa ha intenzione di fare la maggioranza, ma soprattutto come si può rimediare anche con magari l'apporto dell'opposizione, abbiamo in linea con noi l'onorevole Eugenia Roccella, PDL, sottosegretario al welfare. Buongiorno. E, buongiorno. Alla quale chiedo subito: parti di questa legge sono state dichiarate incostituzionali, che cosa avete intenzione di fare? La legge sostanzialmente è uscita indenne da tutti gli attacchi che sono stati fatti finora, sia politici, cioè quello referendario, sia i ricorsi e anche questo quesito alla Corte Costituzionale, come altri peraltro. Quindi che cosa è successo? È successo semplicemente che il famoso limite dei 3 embrioni fornito dal legislatore non c'è più, e il numero di embrioni da produrre e impiantare diventa discrezione del medico. Però resta il divieto di crioconservazione, il divieto di soppressione degli embrioni, il divieto di selezione a scopo eugenetico, resta la dizione per cui bisogna produrre solo il numero di embrioni strettamente necessario, resta insomma l'intero impianto della legge, quindi si tratta soltanto di un margine di discrezionalità del medico rispetto appunto a un impianto che resta coerente, quindi non ci sarà bisogno, da quello che si capisce, perché naturalmente poi è importante anche aspettare le motivazioni della sentenza che ci saranno fra qualche settimana. Dal comunicato ufficiale della Corte Costituzionale non sembra che ci sia assolutamente bisogno di un passaggio legislativo. Quindi bastano dei regolamenti, dice lei? Siccome questa modifica può dare luogo a qualche oscurità sul piano delle pratiche, cioè delle applicazioni pratiche, sarà importante rifare le linee guida, che andrebbero comunque rifatte, perché ci sono altri problemi. Per esempio c'è una direttiva europea che va applicata, la direttiva recepita in Italia col decreto 191 che va applicata e che richiede comunque una serie di aggiustamenti sul piano dei centri. Onorevole, ovviamente lei deve rimanere con noi perché abbiamo l'onorevole Vittoria Franco del Partito Democratico. Sappiamo benissimo che Vittoria Franco è sempre stata una persona contraria a questa legge. E che cosa cambia con la sentenza della Corte Costituzionale? L'onorevole Roccella dice non c'è bisogno nemmeno di un passaggio parlamentare. Lei cosa pensa, onorevole Franco? Sì, non c'è bisogno di un passaggio parlamentare, però non è vero che la modifica sia minima. La modifica invece è molto importante e tocca un passaggio cruciale della legge che noi avevamo contestato e contrastato anche attraverso un quesito referendario. Cosa succede appunto? Che salta il limite dei 3 embrioni, salta l'obbligo di impiantarli tutti in un'unica operazione, e soprattutto ritorna a essere al primo posto un grande valore costituzionale, un importante valore costituzionale, che è il rispetto della salute della donna, che con la legge, nell'impianto complessivo della legge, quasi scompariva a vantaggio di un'altra priorità, che era la salvaguardia e la tutela dell'embrione. E soprattutto un altro momento importante è che il medico ritorna ad avere un ruolo nella promozione, nella tutela della salute della donna e del nascituro, perché non ci dimentichiamo che quell'obbligo di impiantare tutti e tre gli embrioni, quando fossero riusciti a esservi tutti e tre, ha portato, secondo il rapporto che proprio l'onorevole Roccella ha presentato pochi giorni fa, a una percentuale di parti trigemellari del 3,5%, pensiamo che la media europea è dello 0,8%. E quando c'è un parto trigemellare è a rischio la salute della donna, ma è a rischio anche la salute dei nascituri. Quindi in questo modo invece il medico viene ad avere il ruolo che deve avere in un'operazione così delicata, che deve tener conto dell'età della paziente, del tipo di patologia della paziente, perché se la paziente è giovane anche uno o due embrioni possono avere efficacia e dare luogo alla gravidanza. In una donna più avanti con gli anni, tre sono del tutto inefficaci e quindi quella donna è costretta a sottoporsi di nuovo a terapie e a stimolazione ormonale. Poi c'è un altro intervento della Corte che è molto importante. Al comma 3 dello stesso articolo 14, la Corte aggiunge senza pregiudizio della salute della donna, e anche questo è molto importante perché invece rende possibile il congelamento degli embrioni soprannumerari, i quali possono essere congelati non solo per ragioni di forza maggiore, come ora prescrive la legge, ma anche per rispettare la salute della donna per altri aspetti, per altre ragioni che non siano quelle di un'assoluta emergenza. 10.000 coppie costrette ad andare all'estero per avere un bambino, soprattutto quando ci sono malattie ereditarie. Noi non ci dobbiamo dimenticare che la legge esclude dalla possibilità di accesso alle tecniche di fecondazione medicalmente assistita le coppie che siano fertili però portatrici di malattie ereditarie. Ricordiamo chi ha scardinato la legge: Antonia, affetta da una grave malattia ereditaria alle ossa, impiegata con il compagno che ha un lavoro precario, una coppia di trentenni, e lei dice di tre embrioni prodotti, due erano malati e uno non in buone qualità e quindi non potevamo usarli, e siccome le condizioni economiche non lo permettevano non potevano andare all'estero. Prima di sentire Eleonora Porcu, ricercatrice dell'Università di Bologna, responsabile del reparto maternità, volevo chiedere una cosa a Eugenia Roccella, che è stata una dei fautrici della legge. Non è del tutto sbagliato quello che dice Vittoria Franco su fatto che molte coppie poi in questi anni si sono rivolte a centri all'estero? Guardi, prima di tutto volevo sfatare alcuni luoghi comuni che circolano su questa legge. L'onorevole Franco ha parlato del rapporto presentato in Parlamento, da cui si evince, guardando tutti i dati, questo è il terzo anno che il rapporto viene presentato in Parlamento e quindi finalmente c'è la possibilità di confrontare con i dati degli anni precedenti, che la legge funziona, che sono raddoppiati sostanzialmente i nati, che sono aumentate le gravidanze, sono aumentate le persone che accedono alla legge 40, le coppie. E nonostante noi abbiamo uno dei più alti numeri in Europa di percentuale di donne oltre i 40 anni che si sottopongono a trattamenti, il che naturalmente fa crollare i risultati, perché per le donne oltre i 40 anni i risultati positivi sono molto molto bassi. Però va detto che le trigemine a cui si riferisce sempre l'onorevole Franco, la percentuale alta di trigemine, intanto va considerata caso per caso, nel senso che i centri hanno percentuali molto diverse fra di loro. Ci sono centri con zero parti gemellari e centri con 13% di parti gemellari, quindi la forbice è estremamente ampia, quindi la media è molto poco significativa, e io infatti vorrei arrivare, proprio per dare la maggiore informazione possibile alle coppie e alle donne in particolare, a una divisione per fasce dei centri, cioè non tutti i centri sono uguali, e se la forbice è così ampia, la colpa dei parti trigemellari è più facilmente attribuibile a cattive pratiche che non a un limite di legge, altrimenti la percentuale sarebbe più omogenea. Ma a parte questi che possono sembrare magari dettagli, le trigemine, intanto bisogna dire che non esistono dati europei, nel senso che non esiste un registro europeo ufficiale con dati che siano veramente confrontabili fra di loro. Esiste un consorzio con dati che sono assolutamente disomogenei, alcuni su base volontaria, altri non tengono conto di alcuni elementi. Per esempio, in Spagna bisogna ricordare che le trigemine in Spagna, in Francia e in Inghilterra, i parti plurigemellari la percentuale viene abbassata drasticamente perché c'è la pratica della riduzione fetale, quindi degli aborti selettivi. In Spagna ogni 35 parti plurigemellari, a fronte di 35 parti plurigemellari, ci sono 107 riduzioni fetali, quindi in realtà le trigemine sarebbero molto alte. Quindi insomma lei ci sta dicendo che è una cosa che ha a che fare proprio con l'inseminazione artificiale, la possibilità di avere dei parti gemellari o trigemellari. La quota rosa. E torniamo a parlare di legge 40. Eleonora Porcu, ricercatrice dell'Università di Bologna e responsabile del reparto maternità e procreazione assistita al Policlinico Sant'Orsola. Buongiorno, questa sentenza della Consulta come cambia l'applicazione della legge 40 e soprattutto in che direzione deve andare il legislatore? Buongiorno, come cambia è una buona domanda. Io francamente non lo so. Parlo da operatore, quindi da persona che poi deve mettere in atto concretamente i cambiamenti che si profilano all'orizzonte. Questi cambiamenti nella mia visione concreta sono molto oscuri, ovvero vedo da una parte l'annullamento dell'obbligo di trasferire gli embrioni in un'unica seduti in un unico impianto con un numero massimo di 3 e dall'altra parte però vedo conservato la proibizione alla crioconservazione e alla distruzione degli embrioni. Quindi non è affatto chiaro e univoco il messaggio. Cioè lei dice che cosa ci facciamo di questi embrioni se non li possiamo conservare, non li possiamo distruggere, dove li mettiamo? Esattamente. E questo dobbiamo chiederlo poi subito al sottosegretario Roccella, sì. Quindi prima di tutto dateci messaggi chiari e forti, perché chiaramente noi operatori non è che ci possiamo basare sulle cose sentite dai giornali, dalle rassegne stampa, o dovremo avere un'indicazione da un'autorità competente che ci dica da oggi si fa così e nelle varie possibilità dovrete comportarvi in questo modo. Non può essere certamente l'operatore a dare un'interpretazione della legge o delle modifiche di legge, perché in un terreno minato come quello della procreazione medicalmente assistita è possibile incorrere in sanzioni, ci sono aspetti legali veramente oscuri e quindi credo che al momento attuale ogni operatore si stia interrogando su quello che sta cambiando veramente nella prospettiva della nostra attività quotidiana. Devo dire che sempre come operatore che di fronte alla approvazione della legge 40 e alla sua messa in atto si è trovato a dover obbedire ad una legge dello Stato, che tra l'altro vorrei sottolineare, per la quale io non ero stata assolutamente consultata, quindi non ho in nessun modo, non mi è stato dato modo di contribuire né in positivo né in negativo all'approvazione di questa legge. Ecco, me la sono ritrovata e ho cercato di lavorarci all'interno tentando di far funzionare una legge dello Stato nel rispetto massimo della tutela del concepito e della salute della madre, quindi di tutti i soggetti che erano previsti dalla legge. Facendo appello alla mia professionalità medica, ho cercato quindi di flettere le scelte mediche di volta in volta in modo tale da non compiere soprusi nei confronti di nessuno dei soggetti coinvolti nella procreazione medicalmente assistita. E considerando insomma che... quali erano le cose che non funzionavano di questa legge e che cosa bisogna cambiare? Di fatto questa legge, se adeguatamente interpretata, non conduce necessariamente ai disastri così spesso descritti, nel senso che ad esempio le donne giovani che effettivamente possono avere uno svantaggio dal trasferimento di 3 embrioni, ma possono benissimo essere trattate in modo personalizzato. Nel mio centro noi inseminiamo fin dall'inizio solo 2 ovociti nelle donne giovani e abbiamo una ottima percentuale di gravidanza, nonostante si trasferiscano quindi non più di 1 o al massimo 2 embrioni, e abbiamo annullato per definizione le gravidanze trigemine in queste pazienti. Quindi di fatto è possibile esercitare la libertà del medico alla quale si riferiva l'onorevole Franco salvando la salute della donna e tutelando l'embrione. Onorevole Roccella, ha sentito insomma le perplessità di una persona che lavora sul campo. Io voglio avere dei figli, vengono praticamente tutti e tre gli embrioni, come nel caso della persona che ha fatto ricorso poi alla consulta, cioè che è arrivata fino alla consulta, tutti questi tre embrioni sono comunque malati. Che cosa succede a questi tre embrioni malati? Guardi, il discorso lì si entra in un altro campo, cioè nel campo della diagnosi preimpianto. Nella legge, fra l'altro, c'è il divieto di selezione genetica. Lei sa che per fare la diagnosi preimpianto, allora, intanto qui si entra nella questione se si ha diritto o no al figlio sano, cioè se il figlio sano può essere un diritto. Questa legge è fatta per le coppie infertili, cioè per metterle nella stessa condizione di persone che non hanno problemi di infertilità e che fanno un figlio e non sanno se sarà sano o non sano. Questo è un problema che ogni coppia, ogni mamma ha. Sì, però esiste anche l'aborto terapeutico. Quindi, esiste no, anche non l'aborto. Esiste l'aborto terapeutico, esiste l'aborto per gravi motivi di salute psichica e fisica per la donna, che è molto diverso, perché non è l'eugenetica. L'eugenetica vuol dire che la legge si arroga il diritto di dire tu sì, tu no, tu puoi nascere perché sei sano, no, tu nessuno non ha detto puoi nascere questo, perché non sei sano. Però la donna mentre può la scegliere. Legge 194, la legge 194 no, non è una scelta. Nel caso dell'aborto fino a 3 mesi è una scelta, ma nel caso dell'aborto oltre i 3 mesi, a cui lei si riferiva, appunto l'aborto cosiddetto terapeutico, ci devono essere gravi motivi di salute fisica e psichica della donna, cioè è la donna che dice io non ce la faccio, ho gravi motivi di salute per affrontare questa cosa. Quindi è molto diverso sul piano proprio dei principi, di quello che si introduce nella legislazione italiana. Sarebbe la prima volta che si dice nella legislazione italiana un disabile non ha diritto a nascere, una persona malata non ha diritto a nascere. Comunque entriamo in un campo un po' diverso rispetto a quello che ci stiamo chiedendo, cioè gli effetti della modifica della Corte Costituzionale. Questi effetti adesso vedremo, aspetteremo le motivazioni della Corte e poi faremo il percorso normale che si fa per fare le nuove linee guida, quindi il parere del Consiglio Superiore di Sanità, eccetera. Quindi qualche mese ci vorrà. Però io voglio sottolineare che quando si parla di salute della donna, questa legge tutela la salute della donna, perché in altri paesi, noi consideriamo per esempio l'Inghilterra, nei paesi dove si dice il figlio riescono a ottenerlo, bisogna vedere come. Cioè in Inghilterra i trattamenti ormonali arrivano fino a produrre 120 ovociti per un trattamento ormonale, la media è altissima, c'è una percentuale di sindromi da iperstimolazione ovarica che l'Italia per fortuna non conosce, e questo in molti paesi, cioè i trattamenti spinti. Onorevole Roccella, io la ringrazio perché lei ci ha spiegato dal suo punto di vista qual è il problema, ma io voglio dare la parola a Vittoria Franco per ultima conclusione. L'opposizione laica, diciamo, l'onorevole Roccella dice questa è una legge che tutela la salute della donna. Sappiamo che ci sono state molte discussioni tra il presidente della Camera Gianfranco Fini e il presidente del Senato Renato Schifani. Fini dice grazie alla consulta che tutelerà la salute della donna, invece Schifani dice la legge 40 è una legge buona e di libertà. Vittoria Franco. Va bene, questo naturalmente è un dibattito normale in un paese democratico su questioni così nuove e anche delicate, ma io credo che l'onorevole Roccella stia facendo delle forzature dicendo che questa legge funziona, perché intanto proprio dal suo rapporto emerge che il numero dei cicli è aumentato molto di più rispetto alle coppie che ricorrono alla procreazione medicalmente assistita, quindi vuol dire che le donne si devono sottoporre molte volte alla stimolazione ormonale per arrivare poi alla gravidanza, e questo non so quanto tuteli la salute della donna. Certo, mi pare che stimolazioni per produrre 120 ovociti sia un'esagerazione, ma questa sta alla responsabilità del medico naturalmente, però fra 3 e 120 mi pare che possiamo trovare delle ragionevoli vie di mezzo che consentano di non stimolare troppo e di però tutelare egualmente la salute della donna. Sulla questione se si abbia o no diritto al figlio sano, ma perché metterla così? Cioè, ci sono casi in cui la coppia non ha la forza di accogliere un figlio gravemente malato, malattie davvero gravi che portano alla morte certa dopo pochi mesi, dopo pochissimi anni. E allora perché costringere quella coppia a un calvario quando, lo diceva lei interloquendo con l'onorevole Roccella, l'aborto poi invece la legge 194 consente poi alla fine l'aborto terapeutico. Certamente, le donne vi ricorrono proprio perché non hanno la forza di accoglienza. Io capisco e anche ammiro quelle persone, quelle donne, quelle coppie che hanno la capacità di accogliere e lo fanno con un grande sacrificio, benissimo, hanno, è nella loro facoltà, è nel loro diritto, ma perché costringere? Ecco, si sta affermando un po' questa etica di Stato, per cui è lo Stato che attraverso le leggi mi costringe a decidere in un certo modo e non mi consente la scelta, sia pure quando si tratta di scelte che non sono semplici, scelte drammatiche spesso. E allora perché dire che funziona? E io allora invece insisto, se mi consente solo questa battuta, insisto anche proponendole a esponenti della maggioranza, perché non modifichiamo o non facciamo una legge nuova per consentire alle coppie portatrici di malattie ereditarie di accedere alla procreazione medicalmente assistita? E questa è una forma di prevenzione di malattie gravi anche molto diffuse nel nostro paese, come la genetica. Ci dobbiamo rincontrare e rifare un'altra legge. Intanto abbiamo visto che la consulta ha bocciato questa legge, abbiamo visto che continua lo scontro tra il presidente della Camera Fini e il presidente del Senato Schifani sui temi etici. La quota rosa. Abbiamo detto a Kabul pubblicamente che questa legge sulle donne deve essere modificata o che comunque ci aspettiamo un segnale chiaro che smentisca che una legge del genere non avrà mai la luce. E avete sentito il ministro degli esteri Franco Frattini, che si è schierato apertamente contro la legge che obbliga le donne a concedersi ai loro mariti in Afghanistan. Ci sono molte polemiche sulla norma che, secondo un'agenzia delle Nazioni Unite, legalizza in sostanza lo stupro nel matrimonio. Per parlare di questo e per parlare di che cosa può fare il Parlamento italiano, lo Stato italiano, il governo italiano contro l'applicazione di questa legge, abbiamo l'onorevole Margherita Boniver del Popolo della Libertà e la Francesca Maria Marinaro del PD. Iniziamo subito con la maggioranza. Buongiorno onorevole Boniver, che cosa avete intenzione di fare visto che i nostri soldati sono in Afghanistan, combattono per la libertà di quel paese, hanno contribuito a liberare quel paese dai talebani e noi ci ritroviamo di nuovo con una legge talebana? Sì, diciamo che lo sconcerto è stato immenso in tutta la comunità internazionale, ma soprattutto, come diceva adesso il ministro degli esteri Frattini, diciamo in quei paesi che hanno sostenuto dal primissimo momento il processo difficilissimo, per la verità, di normalizzazione, chiamiamola, dell'Afghanistan. Quello che è accaduto è che questa è una legge che per fortuna non è ancora stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, quindi non è ancora una legge entrata in vigore, che si rifà ad un articolo della Costituzione afghana, il 131, peraltro uguale anche ad un articolo nella Costituzione irachena e in molte Costituzioni delle repubbliche islamiche come l'Iran, il Libano, eccetera, dove ci si rifà dicendo praticamente che il diritto di famiglia e il diritto successorio in realtà possono essere dei temi decisi in base alla Sharia, in base alla legge islamica, soprattutto per le minoranze sciite. Quindi questo disastro, che peraltro confligge apertamente con molti degli articoli della Costituzione afghana, che è una Costituzione moderna, nonché con tutti i patti internazionali come quello, la Convenzione sui diritti dei minori, la Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, sono tutti patti internazionali che l'Afghanistan ha liberamente sottoscritto, quindi credo che si aprirà oltretutto un conflitto aperto fra questa legge indegna, dal nostro punto di vista, orrenda, e quello che invece dice la Costituzione afghana. Per concludere questa prima, diciamo, tornata, voglio dire che la comunità internazionale si sta muovendo molto rapidamente, ci sarà una posizione comune europea, quindi saranno tantissimi paesi che faranno pressione sul Parlamento, sul governo dell'Afghanistan affinché questa vergogna venga cancellata. Insomma, non possiamo girare lo sguardo dall'altra parte ed essere indifferenti a quanto sta accadendo in Afghanistan, un paese che, anche se lontano, ha di fatto legalizzato la barbarie nei confronti delle donne. Le donne italiane sono indignate per l'approvazione di una legge anacronistica e violenta. Non posso non chiederti di intervenire per fermare l'ennesimo tentativo di annullare una delle conquiste, quella del rispetto sociale, che le donne afghane hanno così faticosamente eroso alla società dei talebani. Queste sono le parole del ministro delle pari opportunità Mara Carfagna, indirizzata in una lettera alla deputata afghana Fazia Sadat Gailani. Allora, onorevole Francesca Maria Marinaro, il Partito Democratico intanto si muove contro questa barbarie, giusto? Sì, noi abbiamo chiesto al Ministro degli Affari Esteri e al Presidente Schifani di dire quello che il popolo italiano, soprattutto le donne italiane, sentono fortemente, cioè dire, contro una legge barbara, ingiusta e cioè dire, che va contro tutte quelle che sono le convenzioni e i trattati internazionali, oltre ad andare, come ha detto la stessa onorevole Boniver, contro la nuova Costituzione afghana. Abbiamo anche un appello. Era questo che le chiedevo, c'è un appello dei senatori? C'è un appello dei senatori, appunto, aperto, che può essere un appello bipartisan, cioè, visto la posizione del governo italiano espressa soprattutto dal ministro Frattini. L'importante è far sentire questa voce, fare tutti i passi necessari a livello della comunità internazionale e soprattutto spingere Karzai a ritirare questa legge, che non è degna di un processo appunto di democratizzazione con tutto il contributo della comunità internazionale in Afghanistan. Onorevole Boniver, lei prima dell'inizio della trasmissione mi diceva: non è anomalo che ci sia una legge simile soprattutto nei paesi islamici, ma per quale motivo Karzai si è piegato, diciamo, a un volere più dei talebani, e che cosa sta cambiando in Afghanistan? C'è una sorta di recrudescenza dei talebani in questo momento? Sì, intanto chiariamo subito: questa non è una legge talebana, è una legge che va incontro ai desiderata Sikh della minoranza sciita in Afghanistan, che è composta soprattutto dalla etnia Hazara, ma anche da altre etnie, e quindi si può anche immaginare che nel pieno, all'inizio, diciamo, di una campagna elettorale difficilissima per conquistare nuovamente la leadership del paese, spero che questa mia interpretazione sia errata, è pensabile che forse Karzai ha voluto in qualche modo stringere l'occhio appunto a queste minoranze che sono molto agguerrite su quelli che sono i temi appunto del cosiddetto diritto di famiglia. Sì, questo non è soltanto in Afghanistan, ma come dicevo prima in Iran e anche per quello che riguarda l'etnia, diciamo la minoranza sciita anche in altri paesi. Ed è praticamente coincide con le norme del diritto islamico sciita della scuola Jafarita e quindi non è una novità. Quello che è mostruoso, e come abbiamo tutti quanti detto adesso, è che tutto questo avvenga in un paese che sopravvive soltanto perché la comunità internazionale ha investito enormi quantità di denari, ma soprattutto ha investito per la stabilizzazione e la sicurezza con la permanenza di decine di migliaia di soldati che rischiano la vita proprio per il futuro democratico di quel remoto e arretratissimo paese. Ricordiamo infine che la situazione delle donne ancora oggi in Afghanistan, al di là della legge o non legge, ma anche nel vicino Pakistan, in molte altre zone dominata dal fanatismo religioso, è una vita spaventosa, è una vita di schiavitù. Infatti si ripete una catena, i suicidi delle giovanissime donne afghane, le quali preferiscono darsi fuoco piuttosto che essere consegnate a matrimoni forzati, dove poi finiscono praticamente di essere murate vive nelle case, soprattutto nelle zone rurali. E ancora il burqa viene largamente usato, onorevole Bonimer? Come? Ma persino ancora a Kabul sono pochissime, purtroppo un'assoluta minoranza, quelle che osano sfidare i tabù retrogradi che una volta non esistevano, se non altro nelle grandi città afghane, quando c'era negli anni 70, moltissimi anni fa, prima della guerra civile, l'invasione eccetera, c'era un certo grado di modernizzazione che aveva preso piede. Poi i talebani hanno spazzato via tutto, però non parliamo solo delle cose negative, che sono tantissime, parliamo anche del fatto che dopo il 2001 è avvenuto il miracolo, cioè che sono state riaperte moltissime scuole per le ragazze afghane, anche l'università, e ricordiamo che tutto questo era proibito nei lunghissimi anni bui della dittatura talebana. Ricordiamo però che c'è anche la bimba poetessa che sfida i Taliban e che praticamente dice sfido i Taliban per poter andare a scuola. Vive alla periferia di Islamabad in Pakistan e è diventata famosa in tutto il mondo e ha detto: vorrei fare l'astronauta e un giorno guidare il mio paese verso la libertà. Parliamo allora sempre con Francesca Maria Marinaro del Partito Democratico. Insomma, abbiamo visto che c'è proprio un'unicità di vedute tra maggioranza e opposizione, quindi bisogna combattere. Altri appelli, che cosa avete intenzione di fare? Ma noi abbiamo intenzione di fare anche, cioè dire, una discussione nella Commissione Affari Esteri al Senato e anche in aula, perché questi sono temi appunto che hanno bisogno di essere discussi, di non essere chiusi tra specialisti o esperti in temi internazionali. Hanno bisogno di una sensibilizzazione molto più ampia, a partire dall'istituzione appunto, che possono coinvolgere un'opinione pubblica sicuramente scossa, ma che possa far sentire la propria voce in difesa dei diritti, non solo da noi ma anche, cioè dire, lontano da noi, anche perché siamo sempre di più in un mondo sempre più piccolo, cioè dire, la globalizzazione è anche questo. E quindi qualche mozione, qualche ordine del giorno, ci aspettiamo. Abbiamo delle due interrogazioni, una alla Commissione Affari Esteri che andrà, cioè dire, la settimana prossima con la procedura di urgenza, e poi, cioè dire, una in aula che sarà presentata la settimana prossima. Speriamo che in questo appunto si possano ritrovare tutte le forze politiche del Parlamento. E sicuramente sarà così. Io ringrazio l'onorevole Margherita Bonniger e la senatrice Francesca Maria Marinaro. La quota rosa. E in quest'ultima parte ci vogliamo dedicare un pochino al passato, a capire come veniva vista la donna nel Rinascimento, come veniva vista da uno dei più grandi pittori italiani e ovviamente del mondo, come veniva vista la donna da Raffaello d'Urbino. Per saperne di più sappiamo benissimo che una mostra è stata aperta ieri a Palazzo Ducale, ovviamente ad Urbino, e abbiamo con noi Lella Mazzoli, docente all'Università di Urbino e assessore alla cultura del comune. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Questa mostra fino a quando andrà avanti? Fino al 12 di luglio. Quindi c'è tempo perché tutte le persone da tutta Italia possano fare un bel weekend ad Urbino, godersi una bellissima mostra e magari riscoprire questo genio del nostro... Dal mondo, ce l'aspettiamo dal mondo. Dal mondo, no. E riscoprire questo genio del Rinascimento italiano. Allora, in che cosa ci spiega brevemente come è articolata la mostra e che cosa, su quale aspetto di Raffaello vi siete concentrati? Beh, la mostra è articolata, ci sono 20 dipinti e 19 disegni, tutti bellissimi, in particolare i disegni sono veramente una cosa deliziosa e unica. La mostra ha un suo percorso, vuole dimostrare come Raffaello, tutta la sua arte, in particolare il rapporto con il padre, sia stata ispirata dalla nostra città, da questa stessa città, dai suoi paesaggi, dalle sue Madonne, e quindi da questi ritratti meravigliosi che, a differenza di quanto sostengono alcuni storici dell'arte, in questa mostra si vuole dimostrare che siano influenzati fortemente dalla nostra realtà, dal nostro territorio, cioè da Urbino. Quindi è una mostra proprio che ha a che fare con la connessione che c'era tra il pittore e la città. Però in questa mostra molti dei ritratti sono al femminile, giusto? Dico bene? Moltissimi ritratti sono al femminile, straordinari, e mettono in evidenza proprio la bellezza e la dedizione che Raffaello ha nei confronti delle donne, e quindi c'è questa presenza tutta rosa, come la vostra trasmissione, tutta rosa, che dà particolarmente rilievo alle Madonne rinascimentali, alle Madonne intese come donne che abitano il Rinascimento. Quindi questa espressione, questa bellezza, questa lievità e questa dolcezza che è tipica della nostra terra, e ancora noi possiamo vedere donne altrettanto belle e altrettanto dolci. In che modo la figura della donna è cambiata con Raffaello? Raffaello, credo, io non sono uno storico dell'arte, ma ne faccio una lettura da sociologa, e Raffaello ricompone nella bellezza femminile la perfezione. Quindi le sue donne, le sue Madonne sono perfette, perfette nell'espressione, perfette nello sguardo, perfette nei lineamenti, ma nello stesso tempo molto comunicative, quindi hanno una grande forza comunicativa. Quindi non è la perfezione che non comunica, che non dice, ma è una perfezione che comunica e dice molto. Ecco, molto spesso si è parlato di un inizio di rivoluzione con le donne rinascimentali. Lei pensa che sia stato così, che le donne nel Rinascimento sono finalmente venute fuori un pochino di più di quanto invece non fosse nel Medioevo, dove erano dame per cavalieri che combattevano, oppure nell'antica Roma? O c'è una specie di rapporto tra quello che era l'antica Roma e il Rinascimento? Insomma, l'inizio della rivoluzione femminista, per modo di dire, si può basare sul Rinascimento? Io credo che questo, in un certo senso, l'evoluzione c'è e si vede ed è presente, però certo la donna deve lavorare ancora molto prima di essere presente nella vita cittadina, nella vita quotidiana, nella polis. Io direi che anche oggi la donna fa ancora fatica. È vero che il Rinascimento, rispetto al Medioevo, rispetto all'epoca, forse più al Medioevo che non all'epoca romana, la donna comincia ad avere un ruolo più importante, più significativo, questo sicuramente. Quali sono? Su questo, per esempio, proprio intorno a Raffaello, il terziario donna si è interrogato, e in Urbino c'è questa bella cosa organizzata appunto dalle donne, che è un percorso artistico sentimentale tra le figure di donne incontrate o quelle dipinte da Raffaello, che vengono interpretate, reinterpretate, reinterpretate dagli allievi dell'Accademia l'Accademia Belle Arti di Urbino, per far vedere proprio come il Rinascimento possa essere rivisitato e reinterpretato. Quindi noi stiamo lavorando sul femminile, sulla questione di genere, rivedendo queste Madonne raffaellesche. La interrompo sulla questione di genere perché c'è con noi Roberto De Maio, esperto di storia del Rinascimento, autore di molti testi di riferimento, tra cui Donne e Rinascimento, proprio l'inizio della rivoluzione. Che cosa intende dire, professor De Maio? Intendo dire che il Rinascimento ha praticamente offerto alla donna, la prima volta in senso corale, la consapevolezza di essere in una ingiusta situazione di inferiorità, finalmente la donna ha potuto distinguere tra la donna di cultura e la donna di natura. La donna stessa, non soltanto gli altri, diciamo gli umanisti, no? Che in genere la cosa così va, ma lei prende coscienza attraverso, diciamo, i messaggi di queste di donne rappresentative come Vittoria Colonna, per esempio Gaspara Stampa e le donne del Boccaccio già prima. Si crea una situazione virtuosa che rispetto alla cultura precedente appare come rivoluzione, cioè praticamente in questo momento bisognerebbe pensare a Aristofane con la sua bellissima commedia di Sistrata, no? Dove le donne si ribellano e vogliono essere in Parlamento, vogliono attuare anche i loro diritti, oppure per esempio sorge e si diffonde la città delle donne, la Cité des Dames di Cristina de Pizan, che si chiama così questa veneziana trasferita a Parigi, che è un'amica di Giovanna d'Arco, e la città delle donne praticamente sarebbe quasi, non dico un'antitesi, ma un confronto con la città degli uomini di Sant'Agostino. Quindi lei ci sta dicendo che praticamente dalla Grecia, dall'antica Grecia, Aristofane, Lisistrata, e che mi sembra un testo sempre attuale, no? Sempre attuale, se pensiamo all'Afghanistan, come poc'anzi abbiamo parlato in trasmissione, fino al Rinascimento, cioè dal Rinascimento in poi si riprendono dei temi cari. Avviene proprio questa specie di rivolta intellettuale, quindi sono le donne di cultura che creano questa nuova situazione e che fanno di voglia i loro messaggi alle donne stesse. Ma secondo me colui che veramente ha visto la donna secondo natura e l'ha vista, diciamo, nella sua ingiusta situazione sociale è Michelangelo, perché Michelangelo addirittura porta una rivoluzione non solo nella Cappella Sistina ma in tutta la sua opera fino all'ultimo, è una delle grandi, diciamo, figurazioni della donna di Michelangelo, diciamo, sconvolse Goethe quando venne a Roma ed era in un momento in cui stava per chiudere il Faust e non sapeva come, quando ha visto sei gruppi di donne che aiutavano gli uomini a salire e ad andare verso la salvezza, allora lui inventò, diciamo, la cosiddetta il cosiddetto femminino legale. La donna non è un sollievo, la donna è una arbitre della vita. Noi ringraziamo Lella Mazzoli e Romeo De Maio. Ricordo la mostra su Raffaello al Palazzo Ducale di Urbino fino a luglio, quindi tutto il mondo converga ad Urbino. Io ringrazio Paolo Corleone in regia, Riccardo Silvi in redazione. Vi ricordo che ci potete scrivere alla quotarosa@radio24.it. Un saluto da Elisabetta Fiorito.